quali sono state le dinamiche e quali sono le responsabilità. Faccio un esempio: se si passa a un semaforo e si ha un incidente, stabilire chi è passato col verde o col rosso è assolutamente impossibile, perché pochi secondi dopo scatta, e mentre invece la telecamera riprende lo stato del semaforo, e se l'automobilista è passato col verde è evidente che l'altro è passato col rosso, e quindi testimonia immediatamente e in maniera chiara chi è responsabile di che cosa. Uno ascoltando quello che abbiamo appena raccontato potrebbe dire: ma esistono già da tempo videocamere che possono registrare, installandole sul veicolo, incidente o comunque insomma in generale quello che si vede davanti all'autoveicolo. La novità, beh, allora, una novità sicuramente è che questi strumenti si stanno diffondendo sempre più. Fino a qualche tempo fa era una cosa un po' da, se non addetti ai lavori, comunque da super appassionati. Forse la novità è che questo tipo di informazione, questa videocamera, si sta già oggi integrando all'interno di un sistema che viene messo a disposizione delle assicurazioni. Come funziona? Sul mercato ci sono almeno 40 articoli di telecamere, di videotelecamere che registrano eventi dall'automobile, ma hanno un approccio sul tipo della GoPro, cioè registrano continuamente e hanno a che fare, diciamo così, con la spesso con il piacere di registrare il viaggio o situazioni particolari. Questo sistema invece è specifico per le assicurazioni e è specifico per la rilevazione dei crash, e soprattutto quello che gestisce Octocam insieme con Octotelematics è il processo di visualizzazione del video da parte dei soggetti e solamente di questi autorizzati a vederlo per fini professionali, ovvero sia liquidatori, periti della compagnia e lo stesso automobilista che l'ha registrato. Quindi viene inserito in un processo che è blindato dal punto di vista della privacy. Il garante ha dato delle regole abbastanza precise per poter utilizzare questi filmati. Possono essere conservati per 2 anni, cioè per il periodo qui è consentito, diciamo così, effettuare la denuncia, cioè io posso effettuare la denuncia di sinistro anche a 2 anni dal momento in cui questo è accaduto, per cui è necessario che io abbia riscontro di ciò che è accaduto per un periodo esattamente pari a questo. Dopo devono essere cancellati. Però sono autorizzati dal garante, hanno finalità prettamente assicurative. Ci concentriamo nella gestione del servizio connesso con il dispositivo, quindi lo dispositivo è ovviamente uno strumento essenziale, ma ciò che è più complesso e anche più utile ai fini assicurativi è la gestione del processo a valle, quindi lo stoccaggio, chiamiamolo così, dei filmati, la gestione dei filmati stessi, la ricerca di questi filmati con chiavi semplici, disponibili attraverso web, protetti dal punto di vista dell'accessibilità e della privacy, con la rintracciabilità di tutti di coloro che hanno avuto l'accesso a questi filmati, quindi una chiara definizione dei soggetti che l'hanno utilizzato, sempre per poter, perché la privacy è il punto critico ed è l'attenzione fondamentale su cui ci siamo concentrati, e la gestione del processo deve rispondere a questi criteri, perché altrimenti viene inficiata come prova, non ha più l'efficacia che dovrebbe avere. Mi sembra una diffusione della tecnologia molto interessante. Ci sono 2 grandi paesi dove queste videocamere si sono diffuse: negli Stati Uniti, dove vengono fatti degli studi sul comportamento delle persone alla guida, soprattutto se sono dipendenti di un'azienda, ma naturalmente si controlla anche che non mandino un SMS durante la guida, cosa pericolosissima. E poi in Russia, non so se ricordate, qualche tempo fa c'è stato un episodio di una serie di meteoriti che sono caduti sulla Russia, e su internet vennero riversate centinaia, migliaia di immagini di questi meteoriti, riprese da videocamere che stanno sopra al cruscotto delle automobili. Sono diffusissimi in Russia. Là vengono utilizzati soprattutto per capire, in caso di diatriba con la polizia, che cosa è successo, perché insomma magari ci sono degli episodi un po' dubbi, e quindi si sono diffuse molto, e ricordo appunto questo episodio, io guardai queste immagini delle meteoriti dal cruscotto delle automobili e mi chiedevo: ma come mai tutti riprendono le immagini dal proprio cruscotto dell'automobile? Proprio per questo motivo, soprattutto in funzione antifrode o comunque per stabilire chi ha ragione in un litigio. Comunque potete pensare quanti sono gli episodi che, raccontati e raccontati anche da testimoni che a volte sono falsi, possono invece prendere una piega diversa. Davanti al giudice ci sono delle immagini che ci raccontano come sono andate le cose. Ho visto alcune immagini che mi ha mostrato Octocam, alcune immagini di test riprese negli ultimi tempi, in cui si vedono scene che senza immagini potrebbero essere interpretate in un certo modo, con le immagini prendono una piega completamente diversa. Ad esempio, una persona che è quasi di fianco ad un autobus, che sterza in bicicletta, che sterza improvvisamente, va in mezzo alla strada, l'autobus la prende in pieno, la persona fortunatamente non si fa nulla, la persona denuncia il pilota dell'autobus e dice: avevo ragione io perché sono stata investita dall'autobus. L'immagine spiega che l'autista non avrebbe potuto far nulla, ma insomma gli episodi sono tantissimi. Altro episodio emblematico: autobus, perché queste videocamere si stanno diffondendo soprattutto in questa prima fase in ambito di servizio pubblico, di trasporto pubblico. Autobus con 4 persone a bordo, c'è un incidente, il giorno dopo 11 persone vanno a chiedere i danni perché dicono: mi sono fatto male sull'autobus, e andando a vedere le immagini si scopre che sopra l'autobus c'erano solo 4 persone, non 11, quindi almeno 7 di queste persone sono andate a fare una richiesta in modo illecito, e potremmo fare tantissimi, tantissimi altri esempi. Adesso cambiamo argomento, parliamo di radio digitale. Number one is the sound quality. Clear, interference-free reception. That's number one. Number two is the extra choice. Quella che sentite è la voce di Patrick Annon, che è il presidente del World DMB, l'associazione che supporta la standardizzazione, lo sviluppo, la diffusione della radio digitale nel mondo. Beh, ci dice: prima caratteristica che distingue la radio digitale, la digital radio, dalla radio tradizionale, la qualità audio e l'assenza di interferenze. Poi ci sono altre caratteristiche, altre novità, quindi la maggior scelta, perché aumentano i canali diffusi sul territorio, quindi sono più i canali della radio digitale rispetto a quelli che si possono sentire in FM, e poi anche alcuni servizi a valore aggiunto che arriveranno nel corso del tempo. Ricordiamo che la radio digitale esiste anche in Italia. È necessario un ricevitore che possa ricevere i segnali della radio digitale. Normalmente i ricevitori della digital radio, chiamata anche DAB, prendono sia i canali digitali che quelli analogici in FM, quindi se uno acquista un prodotto di questo tipo può anche ricevere i canali della radio tradizionale analogica. Ribadiamo che non è previsto alcun spegnimento delle frequenze FM, che continueranno ad esistere ancora per anni, però sicuramente in questi mesi anche in Italia si sta affiancando a questo sistema in modo piuttosto serio e determinato. Lo stanno facendo tutti i principali broadcaster, tutti i principali attori della radiofonia in Italia, si stanno aggiungendo i canali della radio digitale. Allora, prima di parlare della situazione in Italia, sentiamo a che punto siamo negli altri paesi europei, sempre con Patrick Annon. Ok, so the best way to think about digital radio in Europe is to look at the four original countries, which were the UK, Denmark, Norway and Switzerland. And they all launched about 10 years ago, and digital radio is well established in each of those four territories. In Europa ci sono 4 mercati principali dove la radio digitale è stata lanciata 10 anni fa, ci dice Annon, che abbiamo incontrato a Roma durante il World DMB Forum, il congresso internazionale mondiale della radio digitale. Allora, questi 4 paesi sono Gran Bretagna, Danimarca, Norvegia e Svizzera. Qui la radio digitale ormai si è affermata. Poi c'è la Germania, che ha lanciato il servizio nel 2011, e l'Olanda, che ha lanciato il servizio commerciale lo scorso anno. Parliamo anche della copertura, cioè che percentuale di popolazione è raggiunta dai servizi della radio digitale. Gran Bretagna 99%, Norvegia 99,5%, Svizzera 99%, Germania 91%, Olanda 95%, e poi c'è in termini di copertura il nostro paese, l'Italia. Ne parliamo tra un minuto. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Vi ricordo che da una settimana il nostro programma va in onda il venerdì tra le 22 e le 23, quindi nuovi orari per 2024, e anche la domenica a partire dalle 13 fino alle 13.30 in versione ridotta. Tutto poi troverete all'interno della nostra versione podcast e io vi consiglio di abbonarvi al servizio podcast di 2024 e sicuramente per i programmi on demand, così come il podcast, cioè io voglio ascoltare alla talora un certo programma che potrebbe essere 2024, per questo tipo di fruizione della radio, beh, questo avverrà sicuramente, non può essere che così, via internet, ma per i molti servizi che ancora hanno ragione d'essere in diretta, per le notizie in tempo reale, così come facciamo tutti i giorni a Radio 24, la tecnologia di diffusione via etere continuerà ad esistere per tantissimi anni e si stanno affiancando alle trasmissioni analogiche in FM, quelle che conosciamo tutti, anche quelle in tecnologia digitale. Oggi copriamo buona parte del territorio anche in Italia, ne parleremo tra pochissimo. Ricordo che per ascoltare questo tipo di trasmissioni, la cui caratteristica principale è destinata soprattutto all'ascolto in mobilità, in automobile, perché la caratteristica principale, fondamentale, è l'assenza di interferenze. Poi certo si sente anche molto meglio rispetto all'FM, però direi che quello che di cui un ascoltatore medio si accorge ed è lampante è appunto la assenza di interferenze. Laddove c'è copertura di segnale, uno fa centinaia di chilometri e non sente mai un ticchettio, un fruscio, segnale che va, che viene disturbato da altre frequenze, eccetera eccetera. Allora, quando Annon, il direttore dell'Associazione Mondiale della Radiofonia Digitale, che abbiamo intervistato e sentito poco fa, diceva che il servizio è stato lanciato in alcuni paesi, significa che sono state assegnate definitivamente le frequenze. Ma anche in Italia, nonostante l'assegnazione delle frequenze e diciamo il riordino delle frequenze sia un tema piuttosto complicato ancora oggi, anche se di acqua sotto i ponti ne è passate, quindi molto si è fatto, anche i privati in termini di compatibilizzazione, di accordo tra aziende, è stato fatto molto, quindi l'interferenza è calata molto, ma insomma si possono fare ancora tantissime cose. Insomma, nonostante tutto, possiamo dire che il servizio della Digital Radio, della radio digitale, è stato lanciato commercialmente anche in Italia e quasi tutte le radio nazionali sono on air, come si dice, quindi stanno trasmettendo anche in questo momento. Molto probabilmente alcuni ascoltatori di Radio 24 ci stanno ascoltando in digital radio. Io ad esempio ho una bellissima un sintonizzatore in automobile, ascolto solo in digitale lungo le strade d'Italia. Ne abbiamo parlato, abbiamo fatto il punto della situazione in Italia con Sergio Natucci del Club DAB Italia, il club, quindi il consorzio del quale facciamo parte anche noi di Radio 24 assieme a molte altre emittenti nazionali italiane. Attualmente la Digital Radio in Italia è sviluppata e diffusa da due società consortili, il Club DAB Italia, che è stato il primo operatore di rete, e l'altro Eurodab, sempre privato, e dalla RAI, da Rai Way, che ha la gestione della rete sempre Digital Radio, DAB, nel nostro paese. La copertura è da parte degli operatori privati di circa il 65% del territorio, divisa in modo un po' diverso tra le due società consortili, ma sostanzialmente questo è il livello di copertura. È una copertura importante, soprattutto quella del Club DAB Italia ha una continuità di servizio, si va dal Brennero a Napoli senza alcuna interruzione, oppure da Torino fino a Trieste. Diciamo che noi abbiamo scelto la continuità di servizio nel senso che l'automobilista è il nostro primo target, è il nostro primo ascoltatore, e quindi era giusto che un servizio digitale, un servizio innovativo fosse offerto prioritariamente a loro. A proposito di automobili, quindi del mercato automobilistico, se un consumatore sceglie un'automobile oggi, con quanta probabilità riesce a trovare un prodotto che offra anche la Digital Radio? Ma purtroppo le case automobilistiche si sono concentrate nella promozione dei loro prodotti in un momento di grave crisi delle vendite, anche se in questi giorni sembra che ci sia una piccola ripresa su determinati optional o su determinati elementi attrattivi. La radio non è purtroppo tra queste. Comunque sono 120 in Italia i modelli già dotati di digital radio, di questi circa 25 l'anno di serie, l'altro di optional, si va da prezzi che oscillano fra i 100 e i 300 euro. Io vorrei fare però un riferimento al mercato inglese, perché poi le auto vengono costruite per l'Europa e quindi non è che in Inghilterra, solo per l'Inghilterra si fa la digital radio, ma siamo al 96%. Dei modelli dotati di digital radio e oltre il 60 sono standard, come dicono loro, cioè di serie. Quindi noi abbiamo iniziato la nostra attività di marketing e di comunicazione a settembre del 2013 e in pochi mesi siamo passati da 4-5 modelli a 120. Le campagne che stiamo effettuando, l'informazione che stiamo dando, credo che innalzerà notevolmente il numero dei modelli. Molto spesso, questo è importante per i nostri ascoltatori e per gli utenti automobilistici, esiste la digital radio o la radio DAB, come in alcuni casi si chiama ancora, ma è lo stesso prodotto, ma non viene pubblicizzata, non viene presentata al cliente. Quindi io consiglio di chiederla, perché probabilmente molto più dei nostri censiti 120 autoveicoli hanno questa dotazione. Anzi, potremmo dire, se l'automobile che state per acquistare o che comprerete non ha la digital radio, non compratela proprio. O aggiungo, sono un po' severo nei confronti dei produttori di automobili, se non ve la offrono gratuitamente, magari come sconto, non comprate l'automobile. Però vedremo che cosa cambierà, ma sicuramente cambierà molto anche da questo punto di vista. Il ruolo dell'operatore pubblico, quindi della RAI, quanto è importante per lo sviluppo della radio digitale nel nostro paese? Ma occorre chiarire, il settore radiofonico non è patrimonio di qualcuno in particolare. È un settore composito fatto da soggetti pubblici, un soggetto pubblico e soggetti privati. Poi i privati si sdoppiano in nazionali e locali. Noi crediamo che lo sviluppo della radio deve essere di tutti, deve appartenere a tutti, non deve esserci qualcuno che ha una priorità rispetto agli altri. Lo sviluppo è stato fatto dagli operatori di rete privati, dalle grandi stazioni nazionali private, perché gli altri, diciamo, non hanno dimostrato sufficiente emozione rispetto a questa novità. Ma siccome le frequenze sono un bene e sono un bene in via di esaurimento, come tante altre cose, alla fine bisogna, come dire, pianificare e sviluppare le tecnologie, altrimenti viene tolta, viene meno questa possibilità. Ecco, le locali mi sembra che non abbiano, molte di loro non abbiano probabilmente una dimensione di quello che sarà lo sviluppo futuro e sono un po' in stand-by. La concessionaria pubblica, il discorso è addirittura un po' diverso, perché vive di finanziamento pubblico ed è veramente strano che in un paese come il nostro chi fa da lepre, chi fa da apripista, da rompighiaccio, devono essere le private, che non hanno alcun finanziamento, e le nazionali private non hanno e non godono di nessun aiuto di Stato, mentre chi ha l'aiuto di Stato stenta, sì, fa una copertura, ma insomma è molto faticosa. Io trovo che tutto questo in un contesto di servizio pubblico, ma ormai, questa è la mia opinione personale, credo che bisognerebbe rivedere il concetto di servizio pubblico ed estenderlo anche a tanti altri soggetti, anche a Radio 24, che fa certamente un servizio ai cittadini, un servizio sociale altrettanto importante. Allora, se volete maggiori informazioni sulla digital radio, sulla radio digitale, andate su un sito internet molto semplice, digitalradio.it. Lì trovate molte informazioni, anche informazioni sulla copertura, quindi uno potrebbe domandarsi: ma dove abito io? Sono coperto dai segnali della radio digitale? È una buona domanda, andate su questo sito internet dove trovate maggiori informazioni. Comunque, per ripetere cose che diceva anche poco fa Sergio Natucci, è vero che le reti autostradali e tutte le zone limitrofe, potremmo dire che per il nord Italia tutta, grosso modo tutta la pianura padana è coperta, e effettivamente si va da Torino fin quasi a Trieste e dal Brennero fin quasi a Napoli. Su Napoli stiamo lavorando e tra poco dovrebbe esserci una novità che riguarda la città di Napoli, che è una delle altre grandi città che prossimamente dovrebbe essere coperta dai segnali della radio digitale. Un'altra parola va detta sui prodotti. Sui prodotti da casa va fatto un distinguo. Per il momento tutti gli operatori nazionali della radiofonia stanno facendo una copertura prevalentemente outdoor, come si dice, quindi guardando soprattutto alle grandi dorsali di traffico, quindi le autostrade. Non è detto che poi nelle case, ad esempio io ascolto tranquillamente a Milano la radio digitale in casa, ma questo non è detto che la copertura sia così omogenea in tutto il territorio, quindi su quello verificate la mappa e anzi acquistate magari un prodotto online se per caso nella vostra zona la ricezione è in casa, perché, che ne so, avete un muro molto, molto grande e non riuscite a ricevere, potete rispedirlo. Sapete che ci sono per il commercio elettronico 14 giorni in cui è possibile rispedire il prodotto. Ci sono tantissimi prodotti, ci sono circa 30 prodotti diversi, 30 brand diversi che ormai vendono digital radio anche in Italia. E se poi ci scrivete magari vediamo anche maggiori informazioni. Ci sono tantissimi prodotti di vario genere, da quelli poco costosi che costano tra i 50 e i 100 euro fino a quelli che costano alcune centinaia di euro, che magari si connettono anche ad internet. Potete ascoltare addirittura il podcast assieme alla digital radio, insomma ci sono tantissime cose. Allora, tra poco continueremo, parleremo di una, c'è chi la chiama competizione, c'è chi la chiama convivenza tra internet e la radio, perché alcuni anche che mi scrivono dicono: ma a cosa serve trasmettere in digitale se noi abbiamo già internet e possiamo ascoltare la radio via internet? Allora, sicuramente questo discorso vale e ha senso se siamo fermi, se siamo in casa, se siamo in un ufficio, ma che cosa succede se ci muoviamo con il wireless e le complicazioni date dal territorio italiano? Ne parliamo tra poco con Gunnar Garfors, che lavora alla Norwegian Broadcasting Corporation. La Norvegia è molto avanti, è uno dei pochissimi paesi, assieme uno dei due paesi europei assieme alla Svizzera, che addirittura ha deciso di spegnere le frequenze FM analogiche, quindi anche per la radio digitale si è deciso un passo in avanti molto molto forte. Verranno spente quasi tutte, rimarrà solo qualcosa in qualche piccolo villaggio, quasi tutte le frequenze FM a partire dal 2019. È un esempio significativo, perché internet in Norvegia funziona con la fibra ottica e funziona piuttosto bene, quindi se alcune cose le dice un norvegese, beh, c'è da crederci, no? Ne parliamo tra poco. 2024, disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. Riprendiamo questa puntata, vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast di Radio 24 per riascoltare quando preferite, quando volete, 2024. Trovate tutte le informazioni online oppure scriveteci una email a 2024, scritto in cifra 2024, e radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ringrazio Anita Panizza che è tornata con noi nella nostra piccola redazione, cioè io e lei sostanzialmente, per aiutarci settimana dopo settimana. Allora, dalla prossima settimana lanceremo una nuova rubrica e se avete dei consigli, dei suggerimenti, se vi piacciono alcuni numeri potete consigliarli per inserirli nella nostra nuova rubrica che si chiama Numbers, che avevamo qualche anno fa ma rilanceremo dalla prossima settimana in questo modo. Numbers 2024 Numbers. Questa è la sigla di 2024 Numbers. Della prossima settimana vi daremo alcuni numeri ogni settimana che abbiamo scelto tra quelli che vengono pubblicati. Effettivamente sono tantissimi numeri che ci arrivano tramite ricerche, notizie di vario genere. Allora, della prossima settimana sceglieremo almeno un numero significativo alla settimana. Torniamo a parlare della nostra digital radio, della radio digitale che si sta diffondendo anche in Italia, e a chi ci domanda, ma anch'io me lo domando, questo è un tema sul quale non è che c'è una risposta, si vedrà come si evolverà la tecnologia, però alcune risposte sono interessanti. Abbiamo parlato con Gunnar Garfors, che lavora alla Norwegian Broadcasting Corporation, cioè l'ente pubblico norvegese che diffonde segnali radiofonici e televisivi. Facendo una battuta ho detto: beh, avete un sacco di soldi? E lui ha detto: sì sì, abbiamo veramente un sacco di soldi. E quindi hanno anche possibilità di sperimentare, di comprendere come si evolve la tecnologia. Allora la domanda è: ma visto che oramai sul nostro smartphone, quindi nei prossimi anni anche in automobile avremo internet, che tipo di rapporto c'è tra la radio diffusa via etere anche in modo digitale e internet? Non si può ascoltare la radio via internet anche in automobile, quando ci saranno dei cruscotti con integrato internet anche in mobilità? Oggi parliamo di connessioni 4G, l'Europa e il Giappone stanno lavorando al 5G, quindi stiamo parlando di prospettive di 5, 7, 10 anni. Sentite che cosa ci ha risposto. I don't think it's a competition. They complement each other. Non penso sia una competizione. I due mezzi di distribuzione si integrano a vicenda. Dobbiamo averli entrambi. Alcuni la chiamano radio ibrida, trasmissione ibrida. Some people call it hybrid radio or hybrid broadcasting, hybrid media consumption. I think we need both. We definitely need both. The internet can't solve. Internet non può risolvere tutto, ovviamente internet è la strada da prendere per i programmi on demand o in alcune situazioni come se si vuole ascoltare la propria radio mentre si è all'estero. Lei dice che è più economico trasmettere da un'antenna rispetto a trasmettere via internet. Ci può spiegare per quale motivo? Yes, if you have as a broadcaster, if you have 11,000 listeners or more, it's cheaper to broadcast. Beh, oggi se io ho almeno 11,000 ascoltatori o di più, mi conviene trasmettere da un'antenna via etere e non andare via internet, perché in questo caso devo pagare l'internet service provider per i giga trasmessi o i tera e così via. We as a broadcaster will actually have to pay. And the more people who listen, the more we have to pay because the more data is being distributed. E più persone ascoltano, più dobbiamo pagare perché vengono distribuiti più dati. Se invece trasmettiamo via etere, sappiamo già quello che paghiamo, sia che ci siano due ascoltatori, sia che ce ne siano 2 milioni. There are two listeners or 2 million listeners on the same time. Scusi però, i prezzi delle connessioni ad internet si stanno abbassando sempre di più o comunque allo stesso prezzo si ha sempre più banda. Allora questo suo ragionamento nei prossimi anni, in futuro, potrebbe non funzionare più. Well, that one thing is that prices are going down, consumption is going up. So and that we've seen as long as the internet's been around. Una cosa che succede è che i prezzi vanno giù e il consumo di banda va su. E questo è quello che vediamo da quando esiste internet. Migliore è la connessione e maggiore è il consumo. Sarà sempre così. E questa è solo una questione, ma c'è anche l'esigenza di mantenere la radio libera e gratuita. Of course we have lots of other issues as well. It's about getting radio free to air. Via the internet you will have to pay, you need a subscription. Perché per internet è necessario pagare e avere un contratto con l'operatore telefonico. E poi se troppe persone usano internet, pensate ad esempio in caso di emergenza, se c'è un'esplosione o un incendio, tutti vogliono chiamare o mandare un messaggio e internet non funziona perché troppe persone sono connesse. Of course then the internet services have gone down because too many people are using them. The available bandwidth is one. La banda a disposizione è una e ovviamente se guardiamo alla fibra a casa nostra c'è un sacco di banda, ma se guardiamo ai servizi wireless senza fili la banda è molto più limitata. E poi c'è il problema della copertura del territorio. Se guardiamo al numero di trasmettitori necessari per coprire un intero paese, let's use Norway as an example. We have 765 transmitters for radio. Prendete il caso della Norvegia, abbiamo 765 trasmettitori per la radio. Se volessimo coprire tutto il territorio col 4G, ce ne vorrebbero circa 20,000. If we were to do that with LTE or LTE broadcast, we would probably have around 20,000 transmitters needed. E quello della diffusione internet via LTE 4G e in futuro 5G è un tema fortemente correlato con la diffusione di nuovi impianti, quindi vedremo sicuramente una moltiplicazione di antenne trasmittenti perché è l'unico modo per portare internet di buona qualità ad alta velocità sul territorio. Questo è anche uno dei motivi per cui è necessaria un'infrastruttura in fibra ottica lungo tutto il paese. Sapete che a 2024 io sono un grande sostenitore dell'intervento pubblico che deve costruire un'infrastruttura in fibra ottica per portare internet ovunque, per alimentare anche le stazioni radio base del 4G, del 5G, che deve avere una maglia piuttosto diffusa. E questo è uno dei problemi che gli operatori telefonici dovranno affrontare nei prossimi anni, anche uno dei motivi per cui ancora oggi, per moltissimi anni, il broadcast, quindi la trasmissione via etere che copre con un'antenna decine, centinaia di chilometri, ha ancora un vantaggio competitivo molto molto importante. Potremmo tornare anche su questo argomento, perché questo è un argomento molto interessante. Chiudiamo questa puntata con la voce del sottosegretario Antonello Giacomelli, che è sottosegretario alle comunicazioni. Non esiste più un ministro, ma potremmo dire che è il ministro delle comunicazioni, col quale abbiamo parlato di radio, ma anche di internet, perché c'è ci sono una serie di annunci che verranno fatti molto presto dal governo. Giacomelli. Uno, riordinare la gestione dello spettro. 2. Favorire compiutamente l'avvento del digitale anche nella radiofonia, far ritrovare anche dal servizio pubblico un ruolo di traino anche nell'innovazione tecnologica. Non ho difficoltà a dire che gli operatori privati, che in questo periodo hanno spinto in questa direzione, hanno svolto una funzione di interesse collettivo. E quindi lei dice la RAI dovrebbe investire di più sulla radio digitale, cosa che sta facendo con molta titubanza. Diciamo, la RAI ha investito molto nell'innovazione tecnologica. Io penso sia arrivato il momento in cui debba concentrarsi in questa direzione, esattamente sull'aspetto della radiofonia. Promuoveremo per questo a marzo anche un confronto, come si dice oggi, multi-stakeholder, in ordine alla gestione dello spettro, ma soprattutto con l'obiettivo di favorire condizioni di perché finalmente si possa parlare del pieno avvento del digitale nella radio. Allora, sapete che il Ministero delle Comunicazioni, quando c'era, ma oggi il Dipartimento delle Comunicazioni e anche l'AGCOM, l'Autorità per le Comunicazioni, sono spesso accusati di lentezza nella pianificazione delle frequenze anche per il digitale radiofonico. Allora, è stato fatto un annuncio questa settimana che entro un mese verranno date nuove licenze, comunque sia, al di là delle licenze ufficiali che verranno date oltre che al Trentino Alto Adige, dove già esistono da qualche mese, anche in Valle d'Aosta, in Umbria e nel Piemonte occidentale, al di là di queste licenze che certificano e danno il via definitivo al servizio, tutti gli operatori, come dicevamo, già trasmettono, quindi uno può ascoltare tranquillamente, comprarsi la propria radio digitale e non avere problemi già da adesso. Però poi questa pianificazione servirà per coordinare tutti gli operatori e anche quelli che arriveranno e entreranno nei prossimi mesi. Con Giacomelli abbiamo approfittato, visto che i temi dell'agenda digitale, della distribuzione, della diffusione di internet, dell'infrastruttura di internet, sono temi anche di sua competenza, abbiamo chiesto qualche anticipazione di quello che verrà annunciato tra qualche giorno dal governo, e anche quello che è stato fatto, seppur con grande fatica, nello Sblocca Italia. L'Europa ci ha obiettato che non esisteva un piano nazionale condiviso. Il nostro era una sorta di somma di piani settoriali o regionali. Per la prima volta c'è una cabina di regia che abbiamo chiesto e voluto noi del Ministero dello Sviluppo Economico, che è a Palazzo Chigi, che vede insieme noi, Infratel, AGID, l'Agenzia per la realizzazione dell'agenda digitale, vede insieme i gestori dei fondi e delle possibilità, che dialoga con le regioni. Il frutto di questo lo si vedrà tra una decina di giorni, è per la prima volta un piano nazionale, che è quindi un piano che mette a pulito tutte le risorse e tutti gli strumenti, quindi è un primo esempio di razionalizzazione. Inoltre, nello Sblocca Italia abbiamo provato a inserire un pacchetto di norme che superasse quello che lei dice, intanto anche per favorire l'avvento della fibra, che è il vero obiettivo e il vero confine se il paese vuole stare dentro i processi del futuro. Quindi edifici con la predisposizione alla connettività, quindi possibilità di modalità di posa della fibra diverse da quelle del sottosuolo. Purtroppo non è passato un punto, che è quello di avere per gli operatori che vanno a fare la posa della fibra un interlocutore unico dal punto di vista delle istituzioni, con la regola del silenzio assenso per abbattere i tempi. Le resistenze sono molte, noi non ci arrendiamo e riproporremo in un decreto questo e altri punti, esattamente per l'obiettivo che lei dice. Noi abbiamo bisogno di recuperare un ritardo sull'agenda 2020 e abbiamo bisogno di darci obiettivi ambiziosi, non di accontentarci come fosse un compito che estraneo a noi stessi che l'Europa ci impone. Abbiamo bisogno di capire che la fibra, i 100 megabit, la connettività sono esattamente il futuro per lo sviluppo e non un tema settoriale da aggiungere agli altri. Su queste ultime parole, su questi ultimi concetti, sapete che siamo particolarmente d'accordo. Da sempre siamo forti sostenitori, determinati sostenitori di una infrastruttura pubblica che guardi ad un orizzonte temporale non di pochi anni ma da di 10, 15, 20 anni o forse ancora meglio di più. Dobbiamo riprendere lo spirito con il quale abbiamo costruito le grandi infrastrutture del nostro paese, come gli acquedotti, le reti del gas, la rete elettrica, che non erano infrastrutture pensate per i successivi pochi anni, si guardava a decenni. Allora, dobbiamo parlare di un'infrastruttura di questo genere che deve essere in fibra ottica, che deve arrivare nelle case di tutti gli italiani, nelle aziende, negli uffici, in tutta Italia. Deve essere naturalmente, e non può essere che così, un'infrastruttura finanziata dal pubblico. È un'infrastruttura che ha un ritorno dell'investimento garantito e sicuro nel medio-lungo periodo, quindi è sicuramente una infrastruttura bancabile. Noi sappiamo che il governo sta lavorando verso questa direzione, anche perché questo è scritto nel programma di Matteo Renzi, e quindi verso quella direzione si dovrà andare, se no bisogna rispondere del fatto che uno non è andato in quella direzione. Ne abbiamo parlato parecchio, visto che non sono solo io a sostenere questa tesi, ma ci sono autorevoli esperti, molto più esperti di me, che sostengono questa tesi. Un'infrastruttura pubblica che tra l'altro garantirebbe, oltre che la neutralità della rete, anche una competizione libera in un libero mercato molto più di quanto stiamo vedendo in questi anni. È tutto per questa puntata di 2024, avremo modo di riparlare anche di questo argomento anche in occasione della presentazione di questo piano, che sarà sicuramente un primo passo verso questa direzione che noi auspichiamo, che siamo consapevoli sia un processo molto complesso, ma quella è la direzione verso cui è necessario andare per garantire competitività alle nostre imprese, perché senza internet siamo morti. Allora, prima di chiudere però, due notizie dell'ultima ora, diciamo così. Allora, la prima è una notizia sulla quale sicuramente torneremo per vari commenti. Allora, Microsoft ha fatto una sorpresa a tutti: Office per iOS e per Android è ora gratuito. Esistono tre applicazioni distinte per Word, Excel e PowerPoint che possono essere scaricate dai relativi App Store sia di Apple che di Google, e possono essere usate per creare e modificare documenti su iPhone, iPad e anche su smartphone Android. La versione per tablet Android arriverà nel 2015. Comunque è una notizia che ha sorpreso molti ed è sicuramente un segno della competizione che c'è, soprattutto con Google, tra Microsoft e Google, per i sistemi di produttività da ufficio. Office è la gallina dalle uova d'oro di Microsoft, e la decisione di renderlo gratuito su iOS e su Android, e quindi su più di un miliardo di terminali, è sicuramente molto importante. Poi un'altra precisazione: ho detto all'inizio che nelle città di Roma e di Milano, grazie all'app del car sharing Enjoy, è possibile aprire l'automobile dal telefonino, dallo smartphone. C'è proprio il tasto apri l'automobile. Allora, non è sempre velocissimo, magari a volte bisogna aspettare anche un pochettino, però la cosa bella è che si può aprire dallo smartphone. Ma la cosa da aggiungere è che da questa settimana Enjoy è arrivato anche a Firenze, quindi anche i fiorentini oppure le persone che vanno a Firenze possono aprire l'auto con lo smartphone e poi naturalmente usarla. Bene, concludiamo questa puntata di 2024. Questa è la versione podcast del nostro programma. Grazie per aver scaricato il file MP3 anche questa settimana, averlo ascoltato in streaming attraverso le nostre, i nostri sistemi, il nostro sito internet o tutte le piattaforme che rendono disponibile 2024, come gli altri programmi di Radio 24. Ad esempio iTunes è uno dei più utilizzati, uno dei più frequentati anche dai nostri ascoltatori. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 @radio24.it. Mi trovate anche su Twitter, su Facebook. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre venerdì fra le 22 e le 23, domenica alle 13, oppure naturalmente in podcast. 2024.